Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento settimanale con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo con piacere l'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico. Ben trovata. Grazie, ciao Mirko, ciao a tutti. Allora, parliamo di un caso particolare, un caso che hai seguito tu appunto come esperta legale, un caso di discriminazione nei confronti di una persona non vedente. Cosa è successo? Esatto, sì, abbiamo avuto questo caso di discriminazione che ci ha colpito molto, che adesso è al vaglio insomma dell'ufficio legale di Adico. Niente, questa signora di Milano, non vedente, aveva prenotato in internet tramite il sito Groupon un coupon per un soggiorno in montagna in provincia di Belluno. Poco prima di partire, insomma, poco prima di organizzare questo viaggio, ha deciso di contattare la reception dell'hotel per prendere accordi in merito al pernottamento, in merito insomma alle date. E con grande rammarico la signora ha appreso dal direttore della struttura alberghiera che il cane guida, che per lei ovviamente è necessario perché essendo non vedente ha necessità di avere sempre il cane guida appresso, poteva pernottare, poteva insomma essere presente all'interno di questo hotel solo con una sovrattassa, una spesa aggiuntiva di ben 9 euro al giorno. Ecco, questa è stata insomma la prima spiacevole sorpresa, ma non solo, perché addirittura il direttore dell'hotel ha comunicato alla signora che se voleva essere sempre accompagnata dal cane guida doveva far colazione, insomma andare in ristorante in una stanzetta separata da altre persone, proprio per evitare che il cane avesse potuto in qualche modo infastidire il resto della clientela. Ecco un caso insomma particolare, purtroppo se ne sentono vari, magari non è la cifra che era stata chiesta, che poteva essere insomma abbordabile, è il principio insomma che bisognava far valere in questo caso. Come avvocato, come ti sei mossa dunque? Beh, guarda, noi per il momento abbiamo inviato una lettera di diffida ad Adico. Beh, a dire la verità, devo essere anche onesta, bisogna premettere che la signora comunque aveva già provveduto personalmente a denunciare il direttore dell'hotel ai carabinieri, quindi aveva già proceduto in sede penale. Infatti ricordiamo che c'è una legge specifica, che è una legge che è in vigore da ben 20 anni, che prevede il libero accesso per tutti i cani guida per i non vedenti, sia nei luoghi pubblici, sia nei trasporti, sia in tutti gli esercizi aperti al pubblico. Tanto per dare qualche riferimento normativo, si tratta di una legge del 74 che è stata anche integrata e rafforzata a tutela dei disabili nel 2006 con la legge numero 60. Quindi noi come ufficio legale Adico siamo intervenuti anche in sede civile per chiedere non un risarcimento del danno nei confronti della persona non vedente, ma la signora, insomma la parte offesa, ecco, questa signora non vedente che ha subito questa discriminazione, ha preferito, piuttosto che chiedere un risarcimento per se stessa, chiedere un atto di beneficenza al direttore dell'hotel, ovvero ha chiesto che venisse erogato un contributo per l'addestramento di un cane guida in una determinata scuola, ecco, proprio per fare in modo che anche persone meno fortunate di lei, quindi che non detengono i mezzi economici per fruire di questo mezzo indispensabile che poi è il cane guida, di poter insomma in qualche modo aver pagato almeno una parte dell'addestramento. Ovviamente per sensibilizzare anche l'opinione pubblica. Questa è la richiesta, quindi vuol dire che non si è ancora arrivati a sentenza? No, ancora no, assolutamente. Diciamo che adesso per il momento è pendente l'azione penale, che ricordiamo che per quanto riguarda la sanzione prevista in questi casi di discriminazione nei confronti delle persone diversamente abili, c'è una sanzione pecuniaria che va dai 500 ai 2500 euro, e questa è la parte penale che è stata attivata direttamente dalla signora tramite la denuncia alle forze dell'ordine. Mentre per quanto riguarda noi di Adico abbiamo provveduto settimana scorsa ad inviare la lettera di diffida al direttore dell'hotel per cercare anche di sensibilizzarlo, insomma, anche perché, diciamoci, l'unica proposta che era arrivata da questa persona in maniera spontanea era quella di offrire un soggiorno gratuito nell'hotel, insomma, che insomma è una proposta inappropriata, visto anche i precedenti, insomma, con che spirito una signora che era prima stata discriminata e palesemente non voluta in una struttura alberghiera viene poi ospitata gratuitamente. Cioè. Diventa, è quasi una presa in Sì, è giro, quasi una insomma. presa in giro, certo. E quindi c'è ancora questa azione in corso. Mettendoci dalla parte, proviamo a metterci dalla parte dell'hotel. Ovviamente l'hotel deve mettere a disposizione tutte le strutture di tutte le persone senza discriminazioni. Poi il caso dell'animale si può regolamentare, è regolamentato oppure no? Il caso che sia un animale appunto che accompagna una persona non vedente è trattato diversamente. Cosa dice la legge? Allora, beh, guarda, nel caso di specie, poi tra l'altro io voglio anche segnalare una cosa, che nel coupon c'era scritto in chiare lettere che erano accettati tutti gli animali domestici, quindi senza alcun supplemento, quindi in questo caso c'è una doppia presa in giro, perché non solo non si è trovato riscontro su quello che era poi indicato nel coupon, ma in più c'è stata anche una discriminazione da un punto di vista di una persona disabile rispetto, insomma, ad una persona che invece si serve di un animale domestico solamente per compagnia o comunque, insomma, per altre finalità. Quindi, beh, la legge dice comunque che, ti ripeto, appunto, una legge che c'è da molti anni, prima nel 74, poi è stata poi rafforzata nel 2006, che dice che tutti i cani guida, cioè tutti quegli animali che servono per le persone disabili, in questo caso per i non vedenti, hanno libertà di accesso in tutti i luoghi pubblici, in tutti i trasporti, addirittura gratuitamente nei trasporti, e in tutti gli esercizi aperti al pubblico. Infatti, diciamo che la nota fondamentale in questa storia non è tanto il discorso della sovrattassa, del sovrapprezzo, ma diciamo la circostanza più spiacevole è stata proprio quella che la signora era stata, diciamo, messa in esilio in una stanzetta a parte rispetto al resto della clientela. E allora seguiremo questo caso, poi quando arriverà la sentenza definitiva vi aggiorneremo anche su questo. Grazie all'avvocato Gioia Certo, Barbato dell'ufficio legale grazie dell'Adico, buona giornata. a te. Grazie, saluti a tutti, arrivederci. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.